stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare. E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante. E sono un arrogante, tutte le volte che eri qui e ti ho messo da parte. Non è importante. Balla lentamente, oh eh oh, senza dire niente, oh eh oh. Con la faccia al sole, la tua pelle che sa di sale, oh eh oh. Fallo lentamente, oh eh oh. Come fossimo io il giorno, tu la notte. Tu viso pulito, il mio pieno di botte. Sembra quasi che non vuoi scherzare. Io sopra di te, tu sopra di me. Tu calma, calma. Hai come Mona Lisa ma con la mia camicia. Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Ora allaccia la cintura che entriamo nella mia vita. Ti riporto a casa dopo che ti ho servita. Dai vieni più vicino, si muove col bacino. La mano tra i capelli, se ancora ancora. Dai vieni più vicino, sul collo tuo respiro. La mano tra i capelli, ma l'altra dove va? Dalla mia parte non è importante e sono un...